Tante lettere quanti suoni, perché no? A questo proposito, ho sentito alcuna volta dire a Giovan Battista Vecchietti, gentiluomo di profonda dottrina e di perfettissima cognizione di lingue, che un gran letterato di Persia si messe a imparar con grande ardor questa lingua. Ma quando arrivò a sentir che il C sonava ora muto come ca e ora chiaro come ce, stimando la troppo faticosa impresa, si ritirò più che di fretta, come quel satiro che si fuggì dall'uomo perché scaldava e freddava le cose col fiato. E in vero questo gli poteva parer cosa molto nuova, perché i persiani, come afferma lo stesso Vecchietti, hanno 32 elementi e 32 caratteri da accennargli. E così la loro lingua viene ad essere più pura, più certa e più breve che non è la nostra o alcun'altra d'Europa. Benedetto Buon Mattei.